Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, come va? Alle 8:19 minuti. E come vuoi che vada, caro, caro Alessandro? Lo so da va? Dove cominciamo anche oggi. La coppa se ne va. La coppa se ne va, perché del resto ci avete assassinato il portiere. Primo. Sì, non è stato un bel intervento primo, di là, poveretto, questo povero Hart aveva una specie di turbante sulla testa per continuare a giocare. In compenso però è certo, visto che avveniva contro una squadra di Torino, che la vendetta sarà sublime, perché certo, il fatto che la il Juve, vostro portierino, abbia negato il pareggio a Belotti, la Juve ha deciso automaticamente che se lo compra. È chiaro, sì, è finita 2-1, come la vicenda ieri Bob Marley e le Zeppelin. 2-1 per me. Ognuno ha i suoi punti di vista, ovviamente. Comunque, guardate che Donnarumma è già bianconero, cioè sotto c'ha la maglietta della salute, ma è già bianconero. E così, voi prenderete Buffon. A proposito di Led Zeppelin, senti qui, caro Oscar. Giannino, ma la vera rivoluzione l'hanno fatta i Black Sabbath, con Black Sabbath e Paranoid, 1970. È un altro filone. È un altro filone. Un po' più. Non so se mettere la musica dei Black Sabbath sotto i santi. Cioè, è una forma che questa, per così dire. Proviamo, dai. Proviamo. I santi di oggi con i Black disprezzo, Sabbath. Non disprezzo. Senti. Sei sicuro di fare questo abbinamento adesso? Ma sì. Dai, santi, oggi abbiamo due grandi santi francesi che sono traghettano la Gallia dai Romani ai Merovingi, perché sono Ilario di Poitiers e Remigio di Reims. Tutto sommato sono due santi che hanno a che fare con il potere, e questa è una lettura un po' hard, per così dire, della potenza, ecco, questa è Black Sabbath. Allora, senti che bella. 2-1, eh? 2-1, sì. Vabbè, Buffon lo vedo bene nella vostra porta. Ecco. E vabbè, e a parte i santi? A parte i santi, oggi ci sono un po' di anniversari, per così dire, un po' problematici, perché nel 1915, pensa oggi, io questi li cito tutti per ricordarci che cosa rischia dal punto di vista sismico l'Italia. Nel 1915, oggi, la Marsica viene praticamente spianata e ci sono, pensa, 30.000 vittime, praticamente i tre quarti della popolazione della Marsica sono spianati in questo giorno dal sisma. Naturalmente l'Italia è piegata dalla guerra, però di queste vittime, decine di migliaia, ne abbiamo quasi perso memoria, però attenti, perché lo sappiamo che ogni tanto il terremoto fa toc toc alle porte dell'Italia. Ci siamo già quasi dimenticati di quello di pochi mesi fa. Doveva partire Casa Italia, te la ricordi? Che fine ha fatto Casa Italia? Con il rettore del ex rettore del Politecnico di Milano a gestirla. Bah, poi hai già ricordato, tu hai ricordato oggi nella rassegna stampa un'altra grande tragedia della marineria italiana, dove c'è le posizioni della bomba. Ma oggi, nel 2012, cosa avveniva? Costa Concordia al Giglio. Ah. E oggi sono già passati 5 anni, 30 morti, 2 dispersi, e il mitico sali a bordo, eccetera, eccetera, eccetera. Pensa che nel 1985, invece, oggi iniziano 4 giorni che saranno poi ricordati come la nevicata più forte nella pianura padana del secolo. Ma come no? Te la ricordi a Milano? Scuole più di 70 chiuse, centimetri di chiuse, neve? Ero al liceo, fantastico. 3 giorni di scuole chiuse. Esattamente, come vedi, questa è... E insomma, ricordiamo queste cose. D'ora in poi si ricorderà anche il giorno in cui la Juve ha deciso di comprare Donnarumma. Va bene, allora. Meglio comprare Don Maluma che comprare altre cose. Allora, no, perché stai parlando della Fiat? No, ah, no, no, credevo no, no, fosse un accenno al fatto che non siamo come la Volkswagen. Infatti la Volkswagen no, è la prima azienda mondiale proprio ieri con 10 milioni e 900 mila però auto. Hai sentito, c'è un Marchionne arrabbiatissimo. Arrabbiatissimo perché credo che ce l'abbia con se stesso. Ti spiego. Dici? Perché. Sì, perché l'interpretazione che ieri ha iniziato a girare dopo l'accusa dell'ente federale americano, anche voi siete dei bari sulle emissioni, dove siete dei bari significa non come tutti sappiamo che da sempre le prove fatte al banco con le vetture nuove delle case sono, dichiarano valori molto inferiori rispetto a quelli poi delle vetture vere per strada. Il problema è se c'è anche nelle vetture Fiat Chrysler un device elettronico, un software volto a truccare i dati una volta che c'è il test, come è avvenuto per Volkswagen. Qui c'è un grande problema, adesso non abbiamo tempo per discutere. In realtà tutti quelli che utilizzano i motori turbo diesel utilizzano iniettori e centraline fatte dagli, praticamente dalla stessa, sì, azienda, sì, dalle stesse aziende del mondo. Quindi bisognerà vedere. Ma detto tutto questo, Marchionne è molto arrabbiato perché si è morso la lingua. Perché quando quattro giorni fa ha annunciato gli investimenti aggiuntivi, dice, in America, e Trump si è subito congratulato perché era come Ford, non ha pensato che i democratici, perché Obama, solo perché era lui, ha dato Chrysler. Stai dicendo che è tutta una questione politica. No, ti sto dicendo che, come scrivono tutti i giornali americani, l'EPA, cioè l'Agenzia Federale Americana, va a casa tra poco perché cambia il responsabile e quindi sta smontando i cassetti. Ora, se lui stava zitto, forse se lo risparmiava. Ho capito, però, cioè, voglio dire, un amministratore delegato deve far conto anche di questo tipo, sì, di reazioni. Sì, visto che la Chrysler politiche, l'ha avuto grazie alla politica, quindi doveva l'ha avuto dirlo, grazie a Obama, doveva dirlo Chrysler tra 10 giorni, doveva magari, dirlo, magari 10 giorni. Sì, ma comunque detto tutto questo, il punto adesso veniamo all'Italia. Il punto italiano è che l'Italia comunque in tutto questo, Del Rio ci aveva promesso 1000 controlli a campioni sulle auto e invece devo dire in maniera invereconda è venuto meno la promessa, perché sì, la storia del rapporto affidati test poi dal governo all'ufficio motori del CNR, solo il Fatto Quotidiano se ne è occupato, è un rapporto ridicolo. Abbiamo avuto in tutto 14 controlli su, di cui 7 su auto Fiat e 7 non Fiat, quelli Fiat fatti alla Fiat, ecco, ho detto tutto. E quindi, come si vede, noi abbiamo sempre in testa questa cosa che i test devono essere patriottici e invece no, i test devono essere indipendenti, ecco, il più possibile reali e su strada. Comunque alle 8:26, detto che più avanti avremo ospite il direttore dell'Unità, Sergio Staino, che da 2 giorni non è in edicola perché l'hai letta la lettera c'è lo sciopero che ha pubblicato ieri, sì, sì, quella che aveva inviato a ha delle a parole durissime a dire, ma insomma ci hanno abbandonato il Partito Democratico e Renzi ci ha abbandonato. Però prima vogliamo affrontare questo tema, diciamo affrontandolo così come lo mettono i giornali, ma è giusto chiedere una penale a un politico che cambia casacca, mettiamola così, cambia, perché questo il Movimento 5 Stelle ha fatto facendo firmare una penale da 250.000 euro agli eurodeputati che qualora mai dovessero cambiare partito devono pagare. Questo almeno conto è il valore politico in un paese di transfughi, ma altro conto è se sia davvero un impegno che abbia valore legale. Esatto. Come dire. Allora, noi abbiamo ospite Marco Affronte, che è uno dei 2 eurodeputati del Movimento 5 Stelle che di fatto ha abbandonato il Movimento 5 Stelle. È così, Affronte, buongiorno intanto, grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno. Lei è passato al gruppo Verdi Alleanza Libera Europea, giusto? Sì, esatto. Ovviamente immagino sia per la vicenda del tentativo di passare ad ALDE poi abortito, ecco, è questa vicenda che l'ha portato a fare questa scelta? Quella è stata l'ultima, diciamo, di una serie di malumori, di sapori che stavo pian piano accumulando nel tempo, insomma. Ma tipo, per esempio? Appunto. Ma guardi, ci sono dei punti molto chiari, cioè quando io ho aderito al movimento e quando io di fatto ho anche firmato quell'accordo che è una specie di impegno, diciamo così, morale, l'ho fatto con un movimento che aveva dei principi che uno alla volta sono stati messi da parte. Ce ne dica tre. Era un movimento che era orizzontale, non aveva capi, non aveva leader. Adesso di fatto ha formalizzato che esiste un capo politico e di fatto sappiamo che c'è un vertice, Grillo, Casaleggio e altre persone più o meno conosciute, sono nomi che vengono fuori ogni tanto ma di fatto non è difficile sapere anche chi siano. Un altro punto è il movimento della trasparenza, non c'è trasparenza nel movimento e lo vediamo proprio nel fatto che non si capisce bene quale sia la struttura del movimento, quali siano i rapporti con una SRL che è la Casaleggio Associati e ripeto, non si capisce chi siano le persone che prendono le decisioni, non si sanno i nomi, non si sanno i volti di queste persone, c'è un anonimo e fantomatico staff che fa cadere dall'alto delle cose. Sì. E l'altra cosa è la democrazia diretta, il movimento della democrazia diretta che all'ALDE aveva chiesto veniamo da voi ma dovete inserire il nome Direct Democracy Movement, è il movimento che attualmente sta facendo votare online delle cose con un ritmo sempre più diciamo frequente, che non sono delle votazioni e non sono meccanismi di democrazia diretta, sono la ratifica di decisioni che sono state prese da un vertice chiuse dentro una stanza. Insomma, racconta uno spaccato che l'ha delusa molto, evidentemente. Come la mettiamo con questi 250.000 euro? Lei ha detto, ho firmato un impegno morale. Che significa un impegno morale? Lo deve rispettare o no? L'ho detto nel senso che non è un contratto, no, di tipo commerciale o uno scambio di, diciamo, una formalità fra due società. È una persona che prende un impegno con un movimento politico che ha dei principi, in questi 3 anni i principi sono totalmente cambiati, quindi se io facendo questo passo non rispetto quell'impegno è anche perché dall'altra parte la mia controparte non lo ha rispettato. Questo è, diciamo, la discussione di tipo legale, etico, se vogliamo dire, insomma. Poi dopo quella legale, io non la conosco, non sono un avvocato, ho letto dei commenti questi giorni sui giornali di costituzionalisti che dicono non è possibile. Sì, mi sembra, Oscar, che sia una cosa che dal punto di vista legale non stia in piedi. Io condivido la tua opinione. Comunque oggi, in relazione alla vicenda dell'analogo contratto che riguarda però il sindaco di Roma con i 5 Stelle, sai che è il Messaggero che approfondisce, c'è un'udienza proprio oggi alla Camera di Consiglio, al Tribunale Civile di Roma, perché Monica Cirinnà, ex assessore di sinistra, eccetera, l'ha portato in tribunale. Quindi quello sarà un primo segnale dalla valutazione che i giudici del Tribunale Civile di Roma daranno a questo tipo di contratti. Vale il principio generale in politica affermato per i parlamentari dell'assenza di ogni vincolo di mandato? Se vale, e allora sono tutti tipi di scritture private che in realtà caso di mutamento delle idee dell'eletto non valgono nulla. Vedremo cosa dicono i giudici a Roma. Però a fronte lei deve fronteggiare, utilizzo questa parola, le accuse solite che lei sa da chi lascia il movimento, chi traditore, ha tradito la causa, deve lasciare il posto, cioè magari non deve pagare 250.000 euro, però le chiedono, credo Beppe Grillo, ma tutti l'abbiamo fatto pubblicamente, insomma, cosa fa? Il volta gabbana come tutti i politici? Sì, è chiaro, è ovvio che le accuse vadano in questa direzione, posso dire tranquillamente che sono anche comprensibili, però gli aspetti da valutare sono credo 2 o 3, insomma. Il primo è quello che ho già detto, l'impegno, se anche il movimento è a favore del vincolo di mandato, quanto può essere vincolante questo mandato nel momento in cui la mia controparte, il logo sotto il quale io mi sono candidato, non è più quello, cioè il logo è rimasto quello ma non è più lo stesso movimento con gli stessi principi. No, ma lei dice, è cambiato, però loro dicono ok, si dimetta, no? Cioè lasci il posto, non passi da un'altra parte. Se lei ha dei dubbi, dice mi dimetto, lascio l'Europarlamento. Per chiarire meglio a fronte, la questione non è solo nel rapporto tra l'eletto, quindi lei e il movimento, la questione riguarda anche soprattutto, visto che a leggere poi sono gli elettori, lei gli elettori, cioè moltissimi, come è inevitabile, per esempio adesso riceviamo messaggi e telefonate di gente che dice però un momento, di fronte a centinaia di persone che cambiano idea, benissimo, cambiano idea, hanno una valutazione diversa o è mutato il rapporto che avevano con il partito, però il problema è che io quando ho votato un simbolo di partito, certo. E quindi in questo caso, non essendo parte della decisione, mi trovo col mio voto che non vale più, ecco, questo è. Sì. Questo è, hanno votato un simbolo di partito che, come ho detto, nel tempo appunto ha cambiato i suoi principi. Allo stesso tempo sono a metà di un mandato, quindi dopo 2 anni e mezzo di lavoro al Parlamento. Tra l'altro un lavoro, insomma, nel mio caso se posso dire abbastanza specifico, nel senso che io mi sono sempre considerato un tecnico, non sono un politico, insomma mi occupo di tematiche ambientali, sono un ex biologo marino, quindi nelle mie commissioni faccio un lavoro specifico, le battaglie che io porto avanti non sono non hanno una ricaduta e un interesse soltanto per gli eletti del Movimento 5 Stelle, sono battaglie che servono alla tutela dell'ambiente e quindi hanno una ricaduta globale su tutti i cittadini. Penso che in 2 anni e mezzo si costruisca un lavoro importante, si costruiscono dei contatti, si prendano, ma non c'è dubbio, si iniziano dei lavori e che sento anche il dovere di portare avanti il lavoro che ho cominciato. Però capisce che sono proprio le risposte del politico classico, questo a fronte. Non è che sono, credo, le critiche che ci arrivano via SMS, cioè quelli del Movimento 5 Stelle dicono noi siamo diversi. Se si lascia o se abbiamo delle divergenze col Movimento, forse è legittimo, se mi lasci non va. È legittimo cambiare idea, lascio il posto. Capisce la differenza? Se lei si dimettesse, sì, entrerebbe un altro del Movimento 5 Stelle. Se lei cambia, no, è chiaro, la capisco molto bene. È anche chiaro che la coerenza che viene chiesta continuamente in questi giorni non viene chiesta invece a chi nel tempo ha cambiato idea su molte cose all'interno del movimento. Cioè, è chiaro, una cosa un po'. E anche l'opportunità di cui vengo, cioè l'opportunismo di cui vengo accusato, è sempre un po' miope, no? Perché io in questo modo quasi sicuramente fra 2 anni e mezzo finirò la mia carriera politica e ritornerò a fare quello che facevo prima, sì. Mentre i miei colleghi portavoce che decidono sempre di rimanere in silenzio, in gran parte, mi dispiace dirlo, è perché provano a garantirsi un secondo mandato. Secondo me ci sono altre persone, siete usciti in due, ce ne sono altri che hanno malumori ma non hanno il coraggio di... Ma il malumore martedì e mercoledì era veramente molto forte, poi dopo ho visto che si sono ricompattati, ne sono anche felice per loro perché ho visto persone soffrire veramente tanto e sono tutte persone con cui ho lavorato benissimo e ho il massimo rispetto di queste persone. Se sono riusciti in qualche modo a ritrovare delle motivazioni... Sì, dice buon per loro. Sentiamo, c'è Federico che ci chiama da Pordenone, vediamo se ha qualcosa da dire interessante sul tema. Federico. Sì, pronto? Sì, dica Federico. Buongiorno, complimenti per la trasmissione e io dico sempre Giannino for President perché mi sta simpatico. No, vabbè, simpatia ricambiata, grazie. Detto questo, volevo dire che non sono d'accordo con un vincolo di mandato molto stretto perché praticamente non servirebbero più i parlamentari, però nel rapporto tra eletto ed elettore, diciamo così, molte volte l'elettore sente sfuggire di mano quello che è l'eletto e quindi di conseguenza... Qualunque meccanismo, dal mio punto di vista, anche pecuniario, da deterrente, potrebbe essere utile perché io ho votato un altro partito, ma se è stato votato col 5 Stelle è giusto anche che finisca il mandato dentro lì, che cerchi di fare una battaglia interna al partito e che si cerchi di risolvere le problematiche all'interno del partito. Sì, sì. Perché se no vige il principio eletto liberi tutti, soprattutto al secondo mandato, non tanto al primo. L'elettore a quel punto lì è fregato e basta, perché questa è la verità dopo che succede, al di là di tutti i buoni propositi. Sì, si sente una sorta di io per esempio, lo dico a Federico, lo dico anche a fronte al nostro ospite, anni fa avevo proposto, di fronte al fatto che ogni legislatura battiamo il record, sto parlando delle legislature italiane, non di eletti del Parlamento Europeo, di transfughi, cioè siamo a centinaia e centinaia rispetto ai 1000 eletti, siamo 300 più o meno ormai, che cambiano partito rispetto all'elezione dove sono state elette la sigla, avevo pensato a una forma soft come quella che ci propone Federico Portolano. Per esempio, basterebbe nei regolamenti parlamentari prevedere, nel rispetto del fatto che non decadono perché non è previsto e non c'è vincolo di mandato per i parlamentari in Costituzione, però per esempio con i regolamenti parlamentari si può dire benissimo, cambi gruppo rispetto a quello sotto cui simbolo sei stato eletto, però non ti puoi reiscrivere a un gruppo e non puoi fondare gruppi nuovi, e questo significa vengono meno i diritti di segreteria, i soldi ai gruppi e così via. Questo non impedisce ai casi di coscienza veri di manifestarsi. Del resto però è un freno ai trasformisti di professione che cambiano gruppo ogni mese perché perde dei soldi. Allora, in questo caso per esempio si bilancia un po'. Io parlo del Parlamento italiano. Certo, però, una proposta concreta. Allora, noi però dobbiamo salutare Marco Affronte perché dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Poi riprendiamo, ci sono gli ascoltatori, Luca da Lucca. Avremo il direttore dell'unità, Sergio Staino. di cui ascolteremo questa delusione. Sì, perché... la delusione, c'è da dire che Oscar, quando qualche tempo fa abbiamo visto, non so, Sergio Staino, direttore dell'Unità, che è un fumettista, un regista. Siamo un po' rimasti colpiti, no? Colpiti, un disegnatore, cioè uno che non vedi come il profilo classico del direttore del giornale, dice, ma magari cambia qualcosa. Sì, ma io mi sono detto chi glielo fa fare, se non sei sincero. Cioè, io non sono stupito che gli abbiano dato questo compito, nel mio cinismo di osservatore, no? Che gli abbiano scaricato la patata bollente. Vediamo, capisco che lui adesso lo sentire, ma sia deluso perché è militante. Io non sono stupito, anzi mi stupide il fatto che dice ma va a prendersi sta patata bollente. Beh, in realtà lui qualcosa già dice, perché dice ho rotto rapporti con amici per aver fatto questo. Vabbè, comunque ci dirà qualcosa, vediamo se da direttore dell'Unità, che ripeto è in sciopero da 2 giorni e tra 15 giorni rischia la terza chiusura della storia definitiva, chi lo sa. Vedremo che cosa ci dice. Ma è una notizia per noi, cioè il Milan se lo compra, no? Il Milan anche lui compra, so, anche l'Unità. So. Siamo nei quarti di Coppa Italia, questo so. No, quindi l'Unità non si compra, va bene. Va bene, ciao. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci Oscar, vogliamo sentire Luca da Lucca che ci chiama da un po'. Luca, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, premetto che sono un vostro ammiratore, sì, per cui vi ascolto sempre, però in questo caso io sto notando, non solo da voi ma insomma in genere dai media, una forte aggressione nei confronti del Movimento 5 Stelle, che poi per l'amor del cielo vengono anche invitati a fare contraddittori, ma ecco in questo caso per esempio non ci può essere un contraddittorio, ma il vostro ospite cambia casacca per esempio. E gli abbiamo fatto un'intervista. Gli abbiamo fatto un'intervista. Sì. Cioè, l'intervista vuol dire una persona. Ha lanciato non poco gravi accuse nei confronti del movimento. E no? Va bene. Mi sembrava giusto, magari, che ci fosse qualcuno. Io non sono in grado, premetto, per cui sono un simpatizzante del movimento, ma non sono in grado. No, ma Luca, lei lo so, cade nella trappola del dire che se uno invita Obama deve, o se invitava George Bush doveva avere dall'altra parte Osama Bin Laden per controbattere. Cioè, si fanno le interviste a delle persone, insomma, no? Uno intervista, dà le risposte, domani o chissà intervisteremo qualcuno del 5 Stelle che controbatterà, no? Peraltro ci è capitato anche tante volte di avere esponenti del 5 Stelle, sì, senza, infatti, contraddittorio. Senza contraddittorio, cioè, voglio dire. Anche perché posso dire, adesso svelo una cosa che tutti sanno facendo il nostro mestiere, Luca, quasi sempre sono loro stessi a chiederci che non ci sia un contraddittorio. Luca, non so se lo sa, ma glielo sto dicendo formalmente. No, ma questa idea, però, che se uno intervista ha ragione, uno che dice delle critiche, ci deve no? essere uno del Movimento 5 Stelle che difende, se no è perché tutto Luca sbilanciato. Avrà sentito che noi per primi abbiamo detto sì, ma si metta nei panni degli eletti di 5 Stelle che hanno dato un voto al simbolo del partito e adesso lei ha cambiato idea. Glielo abbiamo obiettato, non è che noi abbiamo detto, abbiamo fatto il giornalista muto che, come nel caso di De Luca, porge il microfono e tace. Per essere quelli di Lira TV, solidarietà ai colleghi di Lira TV. Comunque Oscar, abbiamo qui il direttore dell'Unità, Sergio Staino, che salutiamo. Ciao, buongiorno direttore, buongiorno. Eccoci Ciao. Qua per il secondo giorno consecutivo l'Unità non è in edicola, sciopero, e soprattutto la vicenda più seria, molto seria, è che sono stati annunciati non ho questa cosa perché la proprietà è contenta quando si fa sciopero perché risparmiano almeno i soldi dell'uscita, capito? Direbbe uscire 2 volte invece che fare sciopero. Ecco, questa è un'ottima idea. Questa uscire è 2 volte. Esatto. Quando si litiga col padrone, gli si crea un doppio problema. Verissimo. No, è bello che lo spirito, perché noi dicevamo, caro Sergio, quando abbiamo visto la nomina qualche mese fa all'Unità, insomma, di un profilo, un disegnatore, regista, fumettista, il padre di Bobo, abbiamo detto, ma qua sta cambiando qualcosa, magari, no? Non il profilo tipico del direttore. E invece che è successo? Che è successo? È successo che l'Unità manca di una gamba, insomma, no, perché l'Unità è nata su 2 gambe, una proprietà, un editore sostanzialmente privato, perché l'80% della proprietà è della Pessina Costruzione attraverso 2 rappresentanti, Stefanelli e Massimo Pessina. Il 20% è del PD. Però il PD ha la golden share del giornale, cioè è lui che nomina il direttore, è lui che dà la linea, è lui che è il partito di riferimento che naturalmente organizza poi la presenza sul territorio del giornale. Ecco, questa golden share, questa seconda gamba è sparita. Quando sono diventato direttore, ho avuto grandi entusiastici elogi, auguri da Renzi, a promesse di presenza, di tutto, anche soldi, mi ha detto andando via, non preoccuparti dei soldi perché quelli ci sono, ci sarà tutto tranne quelli. Invece è sparito. A questo punto invece... mancando questo punto di riferimento, cioè che è stato grave, insomma, perché la presenza dell'unità è stata osteggiata alle manifestazioni pubbliche, per esempio in piazza San Paolo per la donata per il sì alla Leopolda, quando c'è stata la riunione, io ho provato a mandare i nostri spilloni con il giornale dentro e non ci hanno fatto entrare. Le feste dell'unità, le ha richiamate feste dell'unità, ma in realtà l'unità non è presente alle feste dell'unità. Ho avuto una serie di boicottaggi e di assenze molto preoccupanti. Molto preoccupanti. Cioè proprio niente, neanche a provare a chiamarlo, a provare niente. Niente, ma neanche un forum al giornale per sapere dove andavamo a finire. Cioè, mi sono trovato a gestire da solo, va benissimo, lo gestisco da solo, però i risultati poi anche di vendita, di presenza sul territorio, di dover cambiare il formato, di fare tutta una serie di scelte editoriali in cui il PD doveva essere presente. A questo punto si chiede una ricapitalizzazione e la proprietà, diciamo quella privata, non se la sente di mettere altri soldi buttati così senza un piano editoriale concordato insieme al partito, che sì, è il punto di riferimento, insomma, ecco. Quindi sì, la lotta naturalmente è contro la proprietà che non mette soldi e che vuol passare invece la riduzione di personale, però la responsabilità è essenzialmente una responsabilità politica. Ma posso fare una domanda? Cioè, ma neanche si sta comportando con la leggerezza nei confronti del giornale, che uno dice ma perché l'ha riaperto, perché mi hai chiamato, scusa, non Però direttore qui c'è Oscar, ma la domanda è, neanche da quando è esplosa, cioè insomma neanche nella giornata di ieri si è fatto vivo qualcuno dalla segretaria del partito? Non si è fatto vivo, nessuno. Ma nemmeno un messaggino, nulla, capisci? È alla riunione dei soci che c'è stata appunto ieri, ma non si è presentato neanche il tesoriere, si è dato malato ed è venuto solo un altro. Cioè c'è un atteggiamento scorretto, profondo, che diventa un atteggiamento politico, perché non posso io non dare un giudizio politico su questa segreteria, se il loro organo principale, che poi era congeniale, quando lui dice adesso abbiamo preso la tramvata del 4 dicembre, io bisogno riparta dal partito, dai territori, e se è vero che vuole ripartire dal partito e dai territori, il giornale mi sembra il primo strumento al servizio di questa strategia però politica. Però che cosa, direttore, cosa in concreto chiedereste al partito e a Renzi? Perché attenzione, qualcuno dice soldi, visto che li ha promessi, però c'è l'aspetto... Soldi è la cosa minore. Lui dice, fra l'altro, dice noi ricapitalizziamo ad un milione sono operazioni naturalmente finanziarie che io non conosco, ma so bene che in genere questi soldi che si mettono spesso sono nominali, non sono cash, non sono, cioè lì c'è bisogno certo di soldi per pagare la carta, pagare la demografia, ci sono arretrati a non finire. Ma quando dice metto un milione, di questo milione sono 800.000, sono crediti che il PD vantava precedentemente e che azzera, benissimo, però i soldi freschi ne vengono 200.000, non è un milione, insomma, parlando papale, insomma, capisci? Dall'altra parte dovrebbero essere, avendo l'80%, dovrebbero mettere 4 milioni, siccome loro hanno già messo, credo, qualcosa fra i 10 e gli 11 milioni, capisco anche che ci sia quantomeno una richiesta di garanzia, è la prima garanzia parlare col diretto referente politico che è Renzi, che è il segretario, che in questo momento e questo non si vede, sono mesi che è nascosto, non appare alla... No, perché molto, molto brutalmente molti ovviamente scrivono se non c'è mercato per un giornale è triste, ma è giusto. Sì, ma io non credo il mercato, no, nostro punto di vista, essendo un giornale politico e non generalista, essendo un giornale che si può reggere dalle 20.000 copie in su, cioè un giornale di servizio ai militanti sul territorio, un giornale di informazione, di dibattito all'interno di tutta la sinistra, un giornale che, come visto nella mia gestione, si riportano interviste, studi e riflessioni che vanno dal centro-sinistra di Napolitano fino al sinistra di Fassina. C'è una possibilità, un'utilità concreta che fa così che un minimo di vendita sul territorio, non i livelli oggi di 200-300 mila copie, ma le 20, le 30 mila copie, il bacino esiste per fare questo. Basta fare un giornale intelligente che sia distribuito bene, che sia naturalmente sostenuto politicamente politicamente nei posti, nei luoghi in cui il partito è presente. Vogliamo sentire dietro, c'è un ascoltatore, si chiama da Livorno, Benito si chiama. Benito, buongiorno. Benito da Livorno. Benito da Livorno. Dica il Benito. Grazie, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sì, volevo fare due considerazioni. Io volevo dire, Staino se n'è accorto che il Partito Comunista non esiste più, che è una palla al piede a Renzi, se n'è accorto oppure no? Visto e considerato come viene trattata l'Unità e Staino, che tra l'altro si era messo a servizio di Renzi, cioè in alcuni casi, ma non ha cambiato la linea editoriale perché possa piacere a Renzi. E poi a Renzi, e questa è la considerazione finale, l'Unità è una palla al piede perché rappresenta il vetero comunismo di una volta. Insomma, no, non mi sembrava che l'avesse però Staino dipinta così Renzi anche in uscite pubbliche, una palla al piede l'Unità, direttore. Sì, forse la mia Unità probabilmente ne voleva un'altra, non lo so, però se ha chiamato me, però non poteva volere sinistra. Io non ho pensato a una persona sconosciuta, esatto. Io ho un'idea, un ideale di sinistra, lo so. Io sono andato lì dicendo voglio un giornale che racconta la verità. Lui stesso mi ha detto non voglio un giornale sdraiato sul governo. Ho detto guarda, figurati se faccio un giornale sdraiato sul governo. Voi vedete uno degli ultimi numeri, Minniti ha fatto quell'uscita sui migranti, sì, io il giorno dopo ho titolato i diritti dei migranti sono i nostri diritti, cioè, quindi assolutamente, ma questo in tante cose, intervistando anche persone, lo stesso Bersani e compagnia bella. Quindi non vedo dov'è questa palla al piede, ma è lui che mi ha chiamato comunque, è lui che l'ha voluta far rinascere, è lui che ha detto non si chiamano più feste democratiche, ma si richiamano feste dell'Unità, perché io la sinistra. E quindi, insomma, adesso, per concludere, Staino, c'è una data triste ovviamente in cui dovrebbe chiudere l'Unità? È il 1° febbraio, ci sarà nuovamente l'assemblea dei soci. Se questo non ci sarà la ricapitalizzazione, certo dovremmo andare alla liquidazione, questo mi sembra ovvio perché questo, c'è una serie di debiti, certo, alle spalle. Spero che non succeda, io sono ancora ottimista, nella speranza che Renzi si faccia vivo e dia alla proprietà queste garanzie politiche che la proprietà chissà, vediamo. Intanto ringraziamo Sergio Staino, direttore dell'Unità. Mi limito a commentare gli iscritti al PD 2013, Emilia Romagna 76.000, a dicembre 2016 37.000. La metà e in altre questo zone. Però d'Italia. Io abbraccio Staino, perché Staino dice questa comunità che mi ha scelto può sparire senza dirmi perché, se preferisci internet perché non me l'hai detto, e questo, secondo me, io dico onore a Staino, perché questo, certo, lo deve dire pubblicamente quella comunità politica, se non gli va più, e allora però forse non doveva dare questo sfregio a Staino, che non se lo meritava, secondo me. Comunque, finiamo qui e ci fermiamo a lunedì, ma c'è Oscar oggi pomeriggio, sabato, e non ci vediamo. Lo so, lunedì, lo so. Il Milan con chi gioca? Sempre col Torino, lunedì. A Torino sto. Ci sarà la rivincita. No, ma il portiere non lo mandiamo in campo, perché sennò gli rompete la gamba. Va bene, d'accordo. Ciao.